Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Da un lato i consumi, come vi ricordavano i nostri GR, pubblica oggi il dato la Confcommercio, i consumi relativi al periodo 2008-2009, praticamente andando a vedere al netto dell'inflazione quanto spendono le famiglie italiane, si è tornati indietro al 1999. È vero che alcuni consumi erano sprechi, ma insomma i dati, questo è il dato sui consumi delle famiglie italiane, con un 2010 definito ancora di convalescenza, quindi inutile attendersi grandi salti nei consumi, un 2011 di transizione e la ripresa viene spostata di un anno al 2012. Fronte italiano, fronte internazionale, torneremo a parlare di Cina, piaccia o non piaccia ad alcuni ascoltatori, che la Cina, che alcuni immaginano, vediamo anche molti sms in questi giorni, produttrice di magliette, di prodotti a basso costo, capace solo di copiare, si sta comprando non solo il debito europeo, come stiamo ricordando da inizio anno, circa 700 miliardi di euro investiti per avere oltre il 7% del debito europeo, non solo viene vista come la manna, addirittura i portoghesi, oggi in estrema difficoltà il Portogallo come andamento del suo debito, la chiamano il nuovo piano Marshall, gli aiuti che arrivano dalla Cina, che poi aiuti sono sotto forma di acquisto di obbligazioni portoghesi, ma anche la Spagna ci conta molto e anche il Belgio, oggi anche il Belgio in forte difficoltà sui rendimenti. Ma non ci sono solo gli acquisti cinesi di bot europee, ci sono anche e soprattutto gli acquisti cinesi di aziende europee, non per cambiare il nome ma per produrre e casomai esportare. Continueremo il nostro viaggio con un altro imprenditore che la sfida l'ha accettata e che quindi mantiene il marchio, mantiene la produzione in parte in Italia, mantiene la testa in Italia, però va a vendere anche in Cina. È un settore, li scegliamo apposta, tra i settori più copiati, dopo aver fatto Pquadri, quindi le borse, Eliche, quindi le cappe da cucina. Oggi passeremo a un settore come quello del legno arredo, il mobilio, anche qui tra i più copiati dai cinesi, proprio per vedere e raccontarvi la storia di chi nella Cina non solo non ha avuto il problema di soccombere alla concorrenza cinese, ma anzi sta sfruttando il mercato cinese per vendere. Nella seconda ora del programma questo, il gruppo si chiama Calligaris. Ancora nella prima parte del programma invece, dopo aver fatto consumi e andamento dei debiti sovrani, nel caso specifico appunto Portogallo e Belgio, ma anche un po' di Spagna, con un'Italia oggi in tensione, poi si sono calmati i rendimenti delle nostre obbligazioni, dicevo, poi passeremo all'altra grossa vicenda del giorno e mi riferisco a Fiat. Perché? Perché oggi si è aperto il salone dell'auto di Detroit, Sergio Marchionne in conferenza stampa poco fa ha annunciato che Fiat è salita dal 20 al 25% del capitale di Chrysler e ha confermato che c'è la possibilità già entro quest'anno di salire al 51%. L'Alfa negli Stati Uniti arriverà probabilmente nel 2012 e poi ha detto attenzione, se vincesse il no nel referendum di Mirafiori ci sono tante altre opportunità per il gruppo Fiat e qui abbiamo il problema la posizione della CGIL, perché come già ieri si era intuito, oggi è arrivata la conferma che Susanna Camusso, nuova segretaria generale della CGIL, appoggia la Fiome, quindi appoggia il no al referendum. Sarebbe un accordo sbagliato, invita la Camusso e i lavoratori a votare no. Anche di questo parleremo nel giorno in cui si scopre che la Cina è diventata anche il più grande mercato mondiale dell'auto, più 32% le vendite in Cina, e che comunque oltre che Volkswagen anche Daimler e BMW e Renault hanno toccato record di vendite. Quindi attenzione, perché lo diciamo col massimo rispetto a Marchionne, che non ci sentirà, il tema è sì le relazioni industriali, i turni, gli accordi, ma è anche i modelli che produci, perché la Fiat invece ha avuto un calo brusco delle vendite proprio nel 2010 altri marchi, anche concorrenti come Volkswagen e Renault, hanno avuto e hanno conosciuto uno degli anni migliori della loro storia. Quindi c'è qualcosa che non va anche sul fronte modelli. Detto ciò, la borsa come reagisce? Male oggi Milano, devo dire tra le peggiori in assoluto, meno 2,20% Milano, meno 1,40% Parigi, meno 1,1% Francoforte, meno 0,50% Londra. Perché va così male Milano? Non per colpa della Fiat, anzi Fiat Auto è uno dei pochi titoli, e anche Industrial adesso, sono i due pochi titoli positivi. Fiat Auto guadagna l'1,81% e Fiat Industrial, cioè camion e trattori, Iveco e CNH, guadagna lo 0,50%. Praticamente siamo a 9,65 euro più 7,55 euro di Fiat Auto. Chi sta abbassando fortemente il valore della borsa è Fondiari Assai, perde il 7,41%, e poi l'automatica il 5,30%, e poi tutti i bancari, Intesa meno 5,1%, Popolare Milano meno 4,70%, Ubibanca meno 4,5%, Monte dei Paschi meno 4,4%, Banco Popolare meno 3,77%, e poi Unicredit perde il 3,3%, Mediobanca il 3%, Diasorin meno 3,77%, Ansaldo STS che molto era cresciuta meno 3,60%, segnalo anche Generali che perde il 2,95%, Buzzi Unicem il 2,93%, il 2,90% lo perde anche Telecom Italia, il 2,60% il calo di Prismian, Campari e A2A. Chiudiamo con Impregilo e Autogrill ed Enel meno 2,20%, Pirelli ed Exor meno 2,1%. E dopo questa spatafiata di titoli di borsa, l'ultimo numero 349-238-6666 per i vostri SMS. Le altre notizie in breve. Di nuovo sulla Cina, ma insomma i cinesi ci comprano per mantenerci in vita, l'abbiamo già detto venerdì, va bene, lo ridiciamo, può essere anche così, può essere che la Cina, oltre che avere una liquidità stratosferica che da qualche parte deve investire, e nessun investitore metterebbe tutti i soldi sul debito di un paese solo, cioè quello americano, e quindi si chiama classica diversificazione di portafoglio, ma può anche essere che sullo sfondo la Cina faccia un ragionamento in quel caso molto lungimirante, cioè che senso ha avere un'Europa che crolla se l'Europa, oltre che essere un produttore di beni per la Cina, è anche e soprattutto un mercato di beni cinesi, e quindi teniamola in vita, ma meno male. Di Fiat non possiamo parlare, parleremo più avanti. Vorrei darvi ancora qualche aggiornamento sui mercati. Invece l'oro è stabile a $1,368 l'oncia, il petrolio è stabile ma è sempre sotto i $90 il barile, a $88,90. La domanda di elettricità a livello italiano torna a crescere. Sapete che questo è uno degli indicatori più forti, a mio avviso anche più affidabili, sulla reale ripresa dell'economia, perché quando le industrie aumentano il ciclo produttivo e quando le famiglie tornano, ma soprattutto le industrie, hanno meno problemi, tornano i consumi di elettricità. Più 1,8% nel 2010 lo ha segnalato Terna. Praticamente 326,2 miliardi di kilowattora, e non è un caso che a trainare l'incremento siano in particolare la Lombardia, il nord-ovest e il sud. Ancora volete sapere dei rischi sui vari paesi, ne parliamo tra un attimo. Comunque, a nuovo record il rischio di fallimento del Portogallo e dell'Irlanda, misurato su quanto costano i premi per le polizze per assicurarsi contro rischi e fallimenti, i CDS, Credit Default Swaps. Allora, a 550 punti quelli sul Portogallo e a 682 quelli sull'Irlanda. Poi invece la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca, la più affidabile in assoluto, e quanto rendono le obbligazioni degli altri paesi, nel caso italiano oggi è arrivata a un certo momento a metà giornata a 200 punti, cioè il 2% di differenza di rendimento, poi è tornata un po' a calare. Invece col Belgio siamo al record da 2 anni, 140 punti, però insomma, più basso rispetto a quello italiano, in una settimana in cui la Germania ha smentito di aver fatto pressioni sul Portogallo perché si faccia aiutare, adotti il fondo salva stati europeo. Però faccio notare che questa settimana è una settimana molto delicata per le aste delle obbligazioni, per i collocamenti delle obbligazioni, perché mercoledì il Portogallo deve collocare 1 miliardo di debito, deve trovare finanziatori per 1 miliardo del suo debito. Giovedì sarà la volta dell'Italia e della Spagna. Un ultimo commento, poi passiamo al primo tema, quello di Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, che dice insomma la ripresa dell'economia mondiale va meglio delle attese. Poi sulla vicenda tunisina e algerina dice vabbè, il rialzo del prezzo del cibo a livello mondiale impatta sull'inflazione. Devo dire che insomma, quanto a Messie della Palisse ci siamo. 349-238-6666 per i vostri sms, e allora parliamo di consumi. Dicevamo biennio 2008-2009 in piena crisi economica, meno 2,1% i consumi delle famiglie, contrazione media, un pauroso salto all'indietro, dice la Confcommercio che ha diffuso il dato e l'ha analizzato, si torna ai livelli precedenti, il 99. Nonostante ciò, nonostante il minor reddito disponibile, sempre la Confcommercio dice che le famiglie italiane si sono dimostrate vitali e reattive, adeguando le loro abitudini di spesa per contenere al massimo la perdita di benessere patita durante la crisi. Vediamo di capirne di più con Mariano Bella, che è responsabile dell'ufficio studio della Confcommercio. Dottor Bella, buonasera. Buonasera. E buon anno chiaramente anche a lei. Allora, pauroso salto all'indietro, dicevamo, è il vostro commento, cioè si torna a dei livelli di consumo precedenti il 1999, precedenti il rapporto lira-euro, e preciso che questi dati sono tutti, considerano già l'inflazione, quindi sono a prezzi costanti, non con dentro l'inflazione, già considerata. Le singole voci, dottor Bella? Guardiamo il biennio 2008-2009, abbiamo che gli elettrodomestici bruni, quindi l'elettronica di consumo, televisori e tutto quello che serve per fare un bel palinsesto gestito autonomamente all'interno delle mura domestiche, abbiamo un segno più. Dopodiché abbiamo quasi tutti segni meno: abbigliamento e calzature meno 3,1, le vacanze meno 3,2, mobilità e comunicazioni meno 3,1, anche gli alimentari hanno subito una riduzione forte, anche se sugli alimentari c'è una parte di riduzione di sprechi che non è effettivamente riduzione dei consumi. Salto all'indietro che possiamo quantificare con la seguente cifra: nel 2009 attesta la spesa per consumi mensili di circa 1.270 euro, nel 1999 era di 1.290 euro sempre a prezzi costanti senza considerare l'inflazione, ed è questo il dato peraltro ufficiale di fonte Istat che fornisce una spiegazione a quel senso, diciamo, di difficoltà, di riduzione delle aspettative soprattutto delle giovani generazioni che oggi paghiamo. Quindi da 1.270 euro precedenti biennio, giusto? Sì, è del 2009, dopo il biennio, diciamo alla fine, dopo la crisi, ecco, eravamo a 1.290 nel 1999, quindi un salto all'indietro di oltre 10 anni. Quindi siamo tornati ai 1.290 euro, diciamo, sì, del 99. Sì. Chiaramente a prezzi costanti, quindi già, certo, già avendo incluso l'inflazione. Sì, lei citava le voci sul consumo alimentare, è vero che c'è, insomma, c'è maggior margine per comprimere la spesa, perché un po' di sprechi li facciamo tutti. Vacanze, ho visto, meno 3%, i pasti in casa e fuori meno 3%, mobilità e comunicazione meno 3%, abbigliamento e calzature meno 3%, insomma salute meno 3%. L'uniche due voci che si confermano in crescita anche nel biennio 2008-2009 sono elettronica e PC, cultura e svago. Ecco, dentro cultura e svago però è opportuno ricordare che c'è anche l'investimento delle famiglie, il consumo delle famiglie per concorsi, per giochi, per lotterie, e questo è un dato, diciamo, complesso da interpretare, nel senso che può essere testimonianza non di un incremento del consumo del godimento, ma del tentativo di sfidare la sorte per sostenere quel reddito che dal punto di vista del lavoro non viene, quindi non è forse un elemento particolarmente favorevole nell'interpretazione dei consumi. Peccato, perché alla voce cultura e svago dico, magari hanno comprato più libri, lo so. No, più c'è cinema, un punto di crescita anche dei musei, spettacoli, ma c'è il discorso delle lotterie che è andato molto, molto forte. Allora, quindi magari si spende un po' meno per le scarpe, si gioca un biglietto in più della lotteria nella speranza che questo possa cambiare radicalmente la prospettiva. Veniamo al 2010 e 2011, perché voi oggi dite, insomma, la vera ripresa dei consumi arriverà solo nel 2012, ma che l'anno che si è appena chiuso, quale fotografia potrebbe portare, ma soprattutto anche come si entra nel 2011, dottor Bella? Beh, bisogna dire con franchezza che il 2010 è un anno di ripresa tecnica, sia come PIL che consumi, cioè abbiamo dei segni più, però è un anno di convalescenza difficile. Secondo noi chiuderà intorno al mezzo punto percentuale di incremento in termini di consumi, forse 1-2 decimi in più. Non entriamo granché bene nel 2011, che riteniamo un anno di transizione. Del resto basta guardare i dati sull'occupazione, che sono crescenti negli ultimi mesi, ma crescenti in modo troppo moderato per recuperare quella base di potere d'acquisto in termini di stipendi, in termini di occupati, che può rilanciare i consumi. Per questa ragione, ecco, posticipiamo al 2012 l'anno della guarigione, che dovrebbe essere connotato da una crescita della spesa delle famiglie dell'1,6%, un dato non eccezionale, ma comunque più significativo dello 0,9 che prevediamo per il 2011. Allora, 2010, l'anno che si è chiuso, è un anno ancora di convalescenza, poi quest'anno dovrebbe essere appunto di transizione, e quindi più 0,5 nei consumi l'anno scorso, vi attendete un più 0,9 quest'anno, e poi il più 1,6% nei consumi si avrà solo nel 2012. Domanda, siccome anche lei riconosce che voi, come altri centri di analisi, avete spostato già di un anno il tempo della ripresa vera e propria, quindi dell'uscita dalla malattia, chi ci garantisce che non a fine 2011 non saremo qui a commentare che si slitta di un altro anno? Questo magari potessi garantirlo, non lo posso garantire io, e purtroppo non lo può garantire nessuno. Però ci sono dei segnali comunque oggettivi. L'Istat dice che l'occupazione comunque sta crescendo, che le forze di lavoro stanno crescendo, un po' di ripresa su alle medie imprese dell'industria c'è, il clima di fiducia delle famiglie e la reattività delle famiglie in termini di rallocazione della spesa è comunque un capitale fiduciario che si può sviluppare. Ecco, molto dipenderà dalla possibilità di innestare un pur modestissimo processo di riforma fiscale che vada nel senso di una riduzione fiscale anche moderata, anche leggera, ma che sia sicura, progressiva e che sia ben schedulata nel tempo. Del resto il federalismo fiscale dovrebbe contribuire proprio a sviluppare questo processo. Proprio in questo fine settimana abbiamo avuto un dato, devo dire in maniera abbastanza sorprendente, ma positivo, sulla natalità e mortalità delle imprese in generale, il dato di Unioncamere. Invece quello che voi avete diffuso oggi, quindi veniamo ai vostri associati, è un dato obiettivamente di emorragia, ossia la differenza tra i nati e i morti nel mondo dell'impresa, del commercio e del terziario è stato ancora negativo, anche se non così negativo come nel 2009. Dov'è che si sono concentrati o si è concentrata la mortalità più forte? Commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso, mortalità più moderata negli alberghi e pubblici esercizi. Il dato di Unioncamere, che è più aggiornato del nostro, si riferisce al complesso delle imprese, molte delle quali sono non classificate, come dire, sono dati provvisori che poi vanno interpretati e letti nel dettaglio. Quando dalle non classificate si parla alle classificate, purtroppo il commercio al dettaglio continua, come il commercio all'ingrosso, a perdere unità lavorative. Avendo unità produttive, unità lavorative, ovviamente c'è un problema anche in termini di sviluppo dell'occupazione, da cui il nostro identificare il 2011 come anno di transizione e non di completa guarigione. Per cui abbiamo visto appunto per il commercio in generale meno 25.000 imprese, cioè la differenza tra le neonate e quelle che hanno chiuso è una differenza negativa per 25.000, questo è il saldo. Sì. Erano 28.000 nel 2009, ma comunque è sempre molto alto il dato delle imprese, sì, del saldo, tra, certo, tra, certo, nati e morti. Alberghi, pubblici esercizi, meno 4.009, anche qui un leggero miglioramento sul 2009, perché erano 5.100, sì, ossia sempre il saldo tra nati e morti da 5.100. Per gli altri servizi, meno 16.000 contro i 20.800 del 2009. Qui il dato è oggettivamente in miglioramento, l'ultimo, sugli, sì, altri servizi. Miglioramento, ma fino a un certo punto, quindi stiamo sempre parlando di una riduzione dello stock. La riduzione, come dire, diventa più piccola col passare del tempo, però in termini percentuali è sostanzialmente simile. Non siamo usciti dalla situazione di crisi nei settori del commercio e dei servizi, anche perché la crisi in questi settori si è sentita dopo rispetto all'industria, alla manifattura esportatrice, che sta giustamente uscendo prima dei nostri settori dalla recessione. In effetti, se si sommano la differenza, quindi la diminuzione di imprese nel 2009 e quella del 2010, insomma per il commercio in generale siamo a praticamente 53.000 imprese in meno in due anni. Sì, sì. Alberghi, pubblici esercizi, siamo a 10.000 imprese in meno come saldo, ripeto perché vedo molti messaggi al 349-238-6666, non sono le imprese che hanno chiuso, è la differenza tra quelle che hanno chiuso e quelle che hanno aperto. E dicevo 10.000 in meno come stock complessivo di alberghi e pubblici esercizi nel biennio 2009-2010 e altri servizi, arriviamo a 36.000 imprese in meno, per, certo, cui stiamo, certo, ragionando di quasi 100.000, vado a span, ma insomma 53 più 36 e più altri 10, siamo praticamente quasi a 100.000 imprese in meno in due anni. Non questi numeri in una piccola misura sono fisiologici, questo, certo, accadeva diciamo anche negli anni 2000, il problema è che c'è un largo pezzo di patologia, certo, cioè la crisi, la recessione che non è normale, non fa parte di un ciclo economico normale, ma di un ciclo economico eccezionale che sta fastidiando queste imprese. Allora in bocca al lupo a tutti gli associati anche del mondo del commercio e dei servizi, grazie. Al responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. Eccola qui la nostra base turco rabbeggiante, perché parliamo dei debiti sovrani dei paesi europei. Lasciateci anche giocare ogni tanto. Vedo molti messaggi che dicono alla Confcommercio, ma insomma è anni che sbagliate le previsioni. Non devo dire, non solo loro, è vero, hanno ragione alcuni ascoltatori nel dire che la politica in primis, governo ma non solo, già nel 2008 2009 diceva non vi preoccupate, il 2010 l'anno della ripresa, poi è difficile tornare indietro quando hai fatto delle previsioni più ottimistiche della realtà. Abbiate almeno, insomma, riconoscete a questo programma che saremmo anche un po' pessimisti, saremmo anche dei gufi, il nostro animale mascotte, però non abbiamo mai detto che la ripresa sarebbe finita, che sarebbe iniziata nel 2010. Adesso, dopo il meteo e la pubblicità, passiamo al Portogallo e alla Spagna, perché qui, adesso, magari spariamo anche un gufo scaramantico, le tensioni ci sono, il test è tutto iberico in questo momento, al di là di chi scrive attenzione se cade la Spagna salta l'euro, parte la nuova ondata di speculazioni sulla Spagna, oggi le speculazioni sono soprattutto sul Portogallo, che non vuole gli aiuti, cioè vuole solo gli aiuti cinesi. Detto questo, a mio avviso, per quel poco che ci capisco, proprio l'interesse di Pechino nel comprare debito europeo potrebbe allontanare il rischio di una nuova ondata di speculazione di attacco all'euro, perché mettersi contro Pechino è dura, con tutti i soldi che ha. Visto che c'è l'Europa del Nord, l'Europa più mediterranea, diciamo medio orientale, noi ci adeguiamo. Allora, il problema del Portogallo, o meglio, il problema della Spagna, si chiama non solo aumento dei rendimenti delle sue obbligazioni, quindi ritenuta meno affidabile di un tempo, aumento dei premi sulle polizze sottoscritte per proteggersi dal caso di fallimento del debito spagnolo, non solo qualche tensione anche sull'obbligazione di un colosso, di una corazzata come il Santander. Il problema spagnolo si chiama anche Portogallo. Perché? Perché, e non è strano in realtà, le banche spagnole hanno come principale esposizione proprio quella nei confronti del Portogallo, quasi 100 miliardi di dollari, 93 miliardi e qualcosa, che insomma, sono una bella sberla. Immaginate se le banche italiane fossero esposte verso un paese a noi vicino, non lo so, la Spagna stessa o l'Austria, per 100 miliardi di dollari. Ma che rappresentano da soli il 30% di tutta l'esposizione delle banche spagnole verso altri paesi. E il rischio è praticamente paragonabile al 5% del PIL spagnolo, senza voler creare allarmismi, ma è sicuramente una settimana molto delicata per l'intera penisola iberica. Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid, buonasera. Buonasera a voi. Allora, al di là della nostra musica un po' così più da Europa africana, come esatto, dicono i paesi del nord, ho capito, ma anche tu non è che tu sia molto più alto come latitudine, eh? No, anzi. Il Marocco è alle porte. Il Marocco per te è alle porte. Dal tappeto in cui sei seduto, dai cuscini in cui ti sollazzi, raccontaci, non parliamo del narghilè, ma raccontaci del vero rischio Portogallo, cioè è un rischio circoscritto al paese oppure, come avvenne per l'Irlanda, in realtà da quello che capiamo noi il rischio vero si chiama esposizione, in quel caso delle banche inglesi, in questo caso delle banche spagnole verso il Portogallo? Beh, sicuramente sì, però non solo, insomma, nel senso che l'economia portoghese e quella spagnola sono fortemente integrate e correlate, insomma sono due paesi diciamo non solo fisicamente ma anche dal punto di vista finanziario e imprenditoriale che sono continuo, non c'è soluzione di continuità, Lisbona e Madrid sono accoppiate, per cui se Lisbona starnutisce il raffreddore poi se lo becca Madrid. Come dicevate voi, sono un centinaio di miliardi di dollari il debito che le banche spagnole hanno, vantano nei confronti, credito che le banche vantano nei confronti del Portogallo, ma bisognerebbe parlare anche di industria automobilistica, di aziende, di commercio, di un treno ad alta velocità che un domani dovrà arrivare fino a Lisbona, insomma, per cui se veramente il Portogallo entra in crisi, in default nelle prossime ore, sicuramente la Spagna verrà toccata. Può darsi che il contagio sia superabile, però insomma... Meglio non arrivare, meglio non rischiare. Ecco, su questo poi si è creata un po' di polemica barra giallo sulle pressioni presunte, oggi il ministro tedesco Schäuble le ha negate, ma insomma, pressioni della Germania, di Angela Merkel in particolare, su Lisbona per dire accettate questi benedetti aiuti europei, non fate anche voi come la Grecia all'inizio, l'Irlanda poi soprattutto, che è dovuta arrivare con l'acqua oltre la gola per accettare l'aiuto europeo perché aveva paura di perdere la sovranità. Perché il Portogallo di Socrate è così insomma, rigido, restio nell'accettare questi aiuti? Beh, perché intanto hanno delle elezioni presidenziali a fine mese, quindi questo ci può essere anche un problema politico dell'attuale maggioranza che poi governa con una maggioranza molto, anzi con una minoranza, e quindi ha bisogno dell'aiuto di altri partiti per governare. Ma direi che sostanzialmente il Premier Socrates è convinto che il paese possa farcela, la crescita 2010, se dicono la verità, è stata due volte quella prevista, cioè l'1,4%, il loro dovere lo stanno facendo in termini di controllo delle finanze pubbliche, dicono aspettate, prima di accettare un aiuto dall'esterno vorremmo tentare di farcela da solo. Io credo che sia una situazione disperata, nel senso che lo stesso ministro delle finanze portoghese alcuni mesi fa dichiarò che il limite massimo sopportabile era il 7%, insomma stanno pagando il 7%, quindi automaticamente è lui che si è tirato un po' la zappa sui piedi. Insomma. Sì, tra l'altro il 7%, ricordo che con tassi ben diversi, era quello che rendevano le obbligazioni, ahimè, argentine. Adesso sì, qui immagino gesti scaramantici in chi sta guidando, sì. Mi raccomando, attenzione, si guida male con una mano sola, però dico... non è un livello altissimo, anche perché allora i tassi erano più alti, quindi il 7%, qui siamo a una differenza di 6 punti percentuali col Bund tedesco quasi. Se sì, se vado, l'altra vado... cosa da dire è se non ci siano degli accordi di cui noi non abbiamo conoscenza con Cina e Brasile che possano intervenire in aiuto del paese, ma questo si saprà. Ecco, sì, sarebbe poi dal punto di vista storico una nemesi che l'ex colonia brasiliana si... Credo che siamo nella Fanta... Vabbè, esatto. Allora, restiamo invece nella realtà. Domanda che girano e che pongono anche gli ascoltatori al 349-238-6666. Allora, nel caso greco, questi hanno truccato come uno scolaro delle scuole medie i conti banalmente ed è venuto giù tutto. Nel caso irlandese c'era un'economia che era cresciuta a dei livelli, la tigre celtica, a dei livelli incredibili, era diventato il posto in cui era più facile in Europa comprare casa, ottenere un mutuo su tutto, le banche. E poi abbiamo visto che c'erano banche che si erano esposte a livello fuori da ogni razio e ragione, e anche lì si capisce, Allied Irish Bank ha assorbito decine di miliardi di euro senza riuscire a risanarsi, a un certo momento tutto il sistema è venuto giù, il mercato immobiliare e quant'altro. Ma il Portogallo, che a memoria nostra non è stato un paese che ha truccato i conti, non ha neanche avuto questa crescita irlandese fuori controllo, il credito al consumo, le banche, l'immobiliare... Ma perché il Portogallo? Perché il Portogallo è da un decennio che sostanzialmente non cresce, sta perdendo fortemente in competitività. Tutto il suo debito è esterno perché il risparmio in Portogallo è ridotto ai minimi termini, insomma un paese che o si mette è troppo indebitato per quello che cresce e quindi l'equazione non può andare in porto. Se poi pagano interessi che sono al di fuori dalle loro capacità di ripagare gli interessi, le cose non possono quadrare, quindi anche sto piano di austerità che hanno varato e che in qualche modo dovrebbe ridurre da un lato le uscite e dall'altra stimolare la crescita, insomma se non vanno a una crescita molto più importante non ce la fanno proprio con i numeri, paese bloccato su se stesso con una disoccupazione elevata perché il 10% più una economia sommersa del 20%, insomma credo che il guai del Portogallo siano proprio un problema di mancata crescita nell'epoca del boom in cui tutta l'Europa cresceva, sono rimasti sostanzialmente piatti e quindi nel momento di crisi non ce la fanno più. Sì, certo che insomma mancata crescita o crescita più bassa degli altri paesi nel momento del boom, debito elevato e l'economia sommersa, stai parlando del Portogallo. Sì, no, perché sai, c'erano venute delle similitudini, ma non le vogliamo nemmeno evocare. Grazie, grazie a Michele Calcaterra, base grazie turca. Ecco, su questo è arrivata anche una precisazione del portavoce del commissario europeo agli affari economico monetari, Olli Rehn, che ha detto: al momento a livello europeo non c'è alcuna discussione su eventuali aiuti al Portogallo o altri paesi della zona euro. Però la settimana la vedremo, ripeto, un aiuto insperato può arrivare dalla Cina, perché voi ci avete chiesto anche ma come mai la Cina ha così tanti soldi per comprare il debito europeo, cioè praticamente si è comprata 700 miliardi quasi di debito europeo, perché ha praticamente 2600 miliardi di riserve di valuta estera, poi ha 850 miliardi che sono in pancia ai principali 8 fondi sovrani cinesi, sono fondi governativi, c'è una spanna di circa 100 miliardi di euro a fondo, e poi ha $3.500 di riserve in valuta, vale a dire il 40% del totale di tutte le riserve mondiali sono in mano cinese, 3.500 miliardi di dollari. Allora, quando poi uno ascoltatore ci scrive, beh, meglio che, dunque, cioè, meglio rinunciare ai dindi cinesi, era una frase bellissima perché la dice lunga sull'esempio del marito cornuto che si taglia, diciamo, i gioielli, e dice meglio rinunciare ai dindi cinesi e non aver lavoro che, meglio rinunciare ai dindi cinesi che dover rinunciare ai diritti acquisiti in questi anni. E parliamo più avanti, ma guardate che le aziende cinesi che si sono comprate aziende europee non è che hanno cambiato il contratto di lavoro, cioè il contratto di lavoro lo sta cambiando la Fiat, che è un'azienda italiana, perché deve competere su scala globale. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Che è successo alle banche? Non mi dire debiti sovrani di Lisbona, Madrid, quant'altro. Insomma, Intesa meno 5,60, Popolare di Milano meno 4,90, UbiBanca meno 4,80, Monte dei Paschi meno 4,40, Banca Popolare meno 4,1, Unicredito meno 3,6, ci mettiamo anche Generali meno 3% e Mediobanca meno 2,80%. Guido. In realtà invece è proprio così, sono i timori sulla situazione dei debiti sovrani in attesa delle aste che dovrebbero esserci fra mercoledì e giovedì sui titoli di Stato di Portogallo o Spagna e Italia. Lo dimostra anche il fatto che il DJ Stoxx europeo di settore ha comunque perso circa il 2%, per cui sono un po' queste le ragioni che oggi hanno dominato a Piazza Affari e che hanno fatto sì anche che Piazza Affari sia probabilmente la piazza peggiore oggi in Europa. Allora, insomma, poco da dire, non ho capito perché però perdono più le banche italiane, l'indice italiano, o le banche vanno male dovunque in Europa e da noi l'indice va peggio perché pesa di più il settore bancario. Perché da noi pesa di più il settore bancario. Perfetto, si fa per dire. Bene anche Bulgari, più 3,20%, di nuovo molto forte il lusso. Sì, il lusso è uno dei pochi settori che oggi si è salvato a Piazza Affari. Questo perché gli analisti iniziano a fare un po' di calcoli sulle stime degli utili e le hanno riviste al rialzo. Questo è vero soprattutto per Bulgari, che oggi ha beneficiato dell'analisi degli analisti di Bank of America, e appunto sulla base di questa tesi di un incremento degli utili fino al 2014 oggi il titolo ha guadagnato il 3,19%. Ancora tra chi invece qui vedo più realizzi, mi riferisco a Ansaldo STS, che bene era andata dopo l'accordo firmato per Copenaghen, 700 milioni, Ansaldo STS meno 3,60, Dia Sorin molto era cresciuto meno 3,77, Lottomatica meno 5,20, tra l'altro in un periodo in cui i giochi e le scommesse, ne parlavamo prima con la Confcommercio, le spese per giochi anche per disperazione sono aumentate in Italia. Sì, diciamo che è un po' di settimane che l'Automatica si muove a cavallo dei 9 euro, ci sono alcune sedute di rialzo che portano il titolo fino a una soglia di resistenza attorno ai 9,5 euro e poi brusche discese. Oggi non ci sono ragioni particolari se non appunto ragioni tecniche, dopo che il titolo ha rotto al ribasso la soglia dei 9 euro, infatti ha chiuso poi a 8,925. Allora, migliori e peggiori, Pininfarina più 8,22, sempre l'ipotesi cinese su Pininfarina, visto che ne parliamo più avanti? Ma in realtà oggi è stato soprattutto Pininfarina in qualche modo Vincent Bolloré a dare il là agli acquisti sul titolo. Il finanziere bretone si è detto pronto a partecipare alla ristrutturazione del capitale della società e questo ha fatto sì che il titolo sia balzato fino a guadagnare oltre il 12%, per poi ripiegare leggermente sul finale e chiudendo a comunque più 8,22% dopo che la società ha smentito, diciamo così, che un accordo sia imminente. Sì, perché ricordiamo l'interesse per i cinesi, e hai ragione tu a ricordare che Bolloré ha detto di essere pronto a partecipare a una ristrutturazione del capitale della società. Mi devi perdonare l'ignoranza, ma PRL cosa fa? E soprattutto più 13,70% oggi? Una società biomedica oggi ha annunciato un nuovo contratto per lo studio di un farmaco innovativo per il trattamento di pazienti affetti da iperplasia prostatica benigna, un contratto che vale circa 5,5 milioni di franchi svizzeri, e sull'onda di questa notizia oggi il titolo ha guadagnato il 13,7%. Ancora, vediamo un attimo altri titoli peggiori. La Lazio, dopo la sconfitta, meno 8,80%, Seat Progettuale sul risparmio meno 8,70%, Fondiaria, meno 7,5%, dimenticavo, nuove tensioni sui resti? Di per sé non ci sono oggi notizie nuove. Ha pagato più di altri il cattivo andamento dei titoli finanziari, e ha pagato anche il fatto che Mediobanca oggi abbia inserito l'azione fra quelle meno preferite, per cui un contesto in cui i titoli finanziari hanno comunque perso, come ricordavi tu prima, fra il 4 e il 5%, Fondiaria SAI, anche a causa di questa analisi di Mediobanca, ha fatto peggio. Grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso, anzi Guido, un commento molto tecnico su Fiat, perché poi adesso parliamo di Fiat estesamente. Insomma, il fatto che sia salita al 25 in Chrysler e possa arrivare al 51 ha avvantaggiato soprattutto Fiat Auto, più nel 41, no? Sì, avvantaggia soprattutto Fiat Auto, anche perché a questo punto in molti vedono come possibile una fusione fra Fiat e Chrysler, e questo in qualche modo fa sì che il titolo ne tragga beneficio. Sembra abbastanza nelle cose. Comunque, grazie, adesso definitivamente parliamo di Fiat. Detroit, ossia il salone dell'auto più importante del Nord America, oggi, anzi, l'apertura al pubblico sarà dal 15 al 23, oggi per la stampa specializzata, previste 30 anteprime mondiali, la nuova Honda Civic, la nuova BMW Serie 6 Cabrio, l'Audi A6, la classe C Mercedes, non sono previste, se ho ben visto, novità Fiat, ma novità invece per la Chrysler, anche perché questa edizione dovrebbe essere l'edizione della rinascita, del rinascimento per General Motors, Ford e Chrysler. Tant'è che nel 2010 GM ha fatto più 7%, Ford più 17%, Chrysler più 17%, e farà sfilare, se ho ben capito, in anteprima la nuova Ammiraglia 300, che sbarcherà in Europa con il nome di Lancia Tema. Ma l'attenzione è tutta dedicata in realtà alla conferenza stampa di Marchionne, di Sergio Marchionne, Andrea Malan. Poi sentiremo cosa ha detto Marchionne della FIOM e anche cosa ha detto la FIOM di Marchionne. Andrea Malan, inviato da Sole 24 Ore a Detroit, buonasera, buongiorno. Buonasera a tutti, anche se qua è ancora mattina. Allora, insomma, guardando i dati di General Motors, Ford e Chrysler e quelli diffusi in fine settimana da Volkswagen, BMW, tutti a record, Volkswagen più 14%, Daimler, Mercedes più 12%, BMW più 13,6%, Renault più record a 2.600.000 vetture più 14%. Forse possiamo dire che qualche problema Fiat, oltre che con la FIOM, ce l'ha anche con i modelli? Diciamo che Fiat non ha ancora reso noti i dati relativi alle vendite 2010, né i propri né quelli di Chrysler. Oggi Marchionne ha rinviato alla conferenza stampa del 27 gennaio, quando verranno discussi i conti del quarto trimestre. Sicuramente le vendite di Chrysler sono salite a quasi un milione e centomila unità negli Stati Uniti, e sono quindi salite anche a livello mondiale, dato che il mercato americano è di gran lunga il più grosso. Per quanto riguarda Fiat, Fiat di per sé sicuramente ha perso terreno in Europa, ne ha guadagnato in Brasile, il bilancio dovrebbe chiudersi più o meno in parità, certo è lontana dai record degli altri che hai citato tutti, alcuni dei concorrenti. In Europa ha fatto meno 17% Fiat. In una battuta, quanti secondi ho? Chiedo in regia quanti secondi ho. Nulla, perché partita la scheda. È veramente cattivo il tecnico oggi. Volevo sapere com'è questa, dimmelo in 20 secondi, com'è questa Fiat, questa Chrysler che deve entrare alla Lancia, l'hai vista? Dunque, l'ho vista di sfuggita perché siamo stati impegnati con conferenze stampa finora. È sicuramente ispirata al modello precedente, rinnovato con linee più filanti. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia e di nuovo in collegamento con Andrea Malani, inviato dal Sole 24 Ore a Detroit, dove si è aperto il salone dell'auto per la stampa specializzata. Una risposta a chi scrive al 349-238-6666. Non è vero che noi godiamo all'idea che gli operai possano soffrire. Abbiamo detto esattamente che oltre al problema delle relazioni industriali, quindi Fiat e Fiom in questo caso, c'è il problema delle vendite, perché altri marchi concorrenti di Fiat come Volkswagen e Renault hanno avuto un 2010 da record, così non si può dire di Fiat che in Europa ha perso quota di mercato. Quindi c'è anche un problema di modelli. Andrea Malan, oggi su questo e in generale sul gruppo, prima di arrivare a Marchionne e su Chrysler, ha parlato anche John Elkann, se ho ben capito, dicendo che insomma non, come presidente del Lingotto non ci sono cessioni in vista. No, non sono, ci sono in vista, soprattutto a proposito di quella di Alfa Romeo. Elkann è stato abbastanza netto e Marchionne lo ha appoggiato spiegando che Fiat, per salire in Chrysler e comunque per le operazioni di quest'anno, non ha bisogno di vendere attività. Resta sempre una piccola percentuale di incertezza legata al fatto che, a fronte di un'offerta conveniente, qualche attività possa essere dismessa, ma diciamo che il concetto è stato ribadito in termini molto chiari. Poi c'è chi può ipotizzare che possa essere una tattica per dire ok, non vogliamo vendere niente, in modo da aspettare che venga qualcuno a chiedere l'attività. Però diciamo che è importante il messaggio che dal punto di vista del finanziamento dell'eventuale operazione Chrysler, i soldi a rete di Marchionne non servono. Domanda, come ha pagato o con quali soldi Fiat è arrivata al 25% di Chrysler e, come annunciato oggi da Marchionne, potrebbe arrivare entro fine anno al 50%? Dunque, oggi non ha speso nulla, perché l'aumento di quota al 25% e poi anche gli altri due fino al 35% sono già previsti dal contratto del 2009 al raggiungimento da parte di Fiat di una serie di obiettivi tecnologici. Quello di oggi era la produzione di un motore ecologico negli Stati Uniti, che poi è il motore Fire prodotto qui e che equipaggia la 500. Quindi Fiat in questo caso in sostanza ha pagato con la sua tecnologia, come era già previsto appunto dagli accordi da due anni. Vicenda Fiat Fiom. Allora, qui bisogna fare un passo indietro e partire dall'Italia, dove questa mattina il segretario della CGIL, Suana Camusso, non dico a sorpresa perché già ieri si era capito che c'era un accordo, ma insomma ha detto attenzione, il referendum, la proposta Fiat è sbagliata, bisogna votare no al referendum, e quindi in tutto e per tutto in linea con la Fiom. Giudichiamo quell'accordo un accordo sbagliato, crediamo che bisogna votare no a quell'accordo, bisogna difendere il diritto dei lavoratori a essere liberi nella possibilità di scioperare, ma liberi anche nel votare i propri rappresentanti ed avere un sindacato che li rappresenta. Sono le ragioni per cui ci sarà lo sciopero generale dei metalmeccanici il 28 e noi saremo con loro, ma anche le ragioni per cui pensiamo che sia bene che i lavoratori si esprimano con un no nel referendum. Così appunto la neo segretaria della CGIL Suana Camusso. È tornato sul tema invece il segretario, il numero uno della Fiom, quindi la parte della CGIL che rappresenta il mondo della metalmeccanica, e mi riferisco a Maurizio Landini. Ascoltiamolo al microfono del nostro Andrea Viali, dire insomma la partita può ancora essere vinta, l'avvertenza è aperta. L'avvertenza è assolutamente aperta e le iniziative che mettiamo in campo vogliono proprio dare il messaggio alle lavoratrici, ai lavoratori, che uniti possiamo impedire questo arretramento delle condizioni, dei diritti e della democrazia del nostro Paese, ed è questo il vero modo per difendere il lavoro nel nostro Paese, per costruire le condizioni per una nuova struttura industriale che abbia un futuro nel nostro Paese. Allora, vediamo di capirci, votassero come vogliono i lavoratori, ci mancherebbe della Fiat, però una cosa va detta, così come abbiamo criticato l'assenza di modelli nuovi nel gruppo del Lingotto, cioè io Landini in questo caso non lo capisco, che la partita possa essere vinta ci mancherebbe, se hanno il 51% vincono, ma vinci il referendum. Non ho capito cosa intende dire con la partita vinta, perché se poi Marchionne non investe in Mirafiori e va a investire da altre parti, tu hai vinto il referendum, ma una volta si chiamava vittoria di Pirro. Vediamo di capirlo con Andrea Malan. Andrea Malan, poco fa Marchionne ha commentato anche in maniera abbastanza netta la FIOM e la posizione della FIOM. Sì, ecco, possiamo sentire direttamente quello che ha detto a proposito appunto di Landini. L'obiettivo di avere il 51% è l'unica cosa che ci siamo imposti come obiettivo. Che la maggioranza dei lavoratori siano ragionevoli, questo non aspetto. Non voglio entrare nella polemica con Landini, perché non risolviamo niente. Ma è completamente impossibile discutere con qualcuno che considera qualsiasi cosa facciamo noi illegittimo. Un referendum che non abbiamo chiamato noi, è stato chiamato dai sindacati e adesso è illegittimo. Anche la colpa della Fiat. E poi ha aggiunto anche qualcos'altro, a mio avviso di più preoccupante, sulle alternative a Mirafiori. Andrea? Diciamo che lui non ha voluto esplicitamente dire qual è il piano B, ma è noto che per esempio la Giulia Alfa Romeo, che dovrebbe essere prodotta a Mirafiori a partire dal 2012, potrebbe invece essere prodotta nello stabilimento americano che produce già i modelli sulla stessa piattaforma. Non sarebbe un problema, non sarebbe un costo eccessivo per Fiat e Chrysler, per cui l'opzione c'è. Marchionne non ha voluto evocarla esplicitamente, ma ha parlato più volte in passato di un piano B, e oggi si è dilungato a fare i complimenti al sindacato americano e a quello canadese per l'atteggiamento tenuto finora con Chrysler, quindi sottolineando come per esempio nell'inaugurazione la settimana scorsa dello stabilimento in Ontario che produce la Chrysler 300, i sindacalisti abbiano chiesto esplicitamente di aggiungere il terzo turno, il turno di notte, per poter assumere qualche centinaio di lavoratori in più. Quindi Marchionne non ha fatto che rimarcare la differenza, a suo dire, tra atteggiamenti completamente diversi, sì. Uno cooperativo e uno di contrasto. E lo dico con massimo rispetto per la FIOM, ma insomma anche quelli canadesi e americani sono sindacalisti, e che sindacati, se qualcuno conosce la storia del sindacato americano e canadese. Cioè non è che il sindacato è solo quello della FIOM, lo dico anche chi scrive, con massimo rispetto. Chiudiamo su una cosa però, visto che oggi la notizia è anche del record di vendite auto in Cina, cioè la Cina è a questo punto il più grande mercato mondiale e il più grande produttore al mondo di automobili, 18 milioni di auto vendute, 18 milioni di auto vendute nel 2010, più 32%, e 18 milioni di auto prodotte, ma vanno anche all'estero. Marchionne ha fatto un po' di autocritica sulla debolissima presenza della Fiat in Cina? Sì, ha fatto un'autocritica un po' scherzosa e un po' seria, perché è un punto su cui lui si era esposto nel primo piano quinquennale, appena arrivato a Lingotto, promettendo 300.000 auto vendute che non si sono poi materializzate. Ha ribadito oggi che lo stabilimento è in corso di costruzione, le prime auto dovrebbero uscire nel 2012, a sua detta l'alleato che Fiat ha trovato adesso è quello giusto, e quindi non ha fatto che rimandare a fra due anni per l'inizio dello sbarco Fiat nel mercato cinese. Alcuni sostengono ovviamente che i treni persi sono stati oramai un po' troppi, però diciamo che se uno dispone dei modelli giusti e se riesce effettivamente, cosa importante in Cina, a trovare un alleato valido, può recuperare, dati i tassi di crescita del mercato, pur se previsti in lieve rallentamento nei prossimi anni. Grazie Andrea Malani, in collegamento con noi da Detroit. Noi continuiamo a parlare di Cina, delle opportunità per le imprese italiane in Cina, e anche del fatto che la Cina, che i cinesi non siano più qui con le bacchette per il riso in mano, ma stiano facendo shopping non solo del debito europeo ma anche delle aziende europee, oltre al fatto che si è comprata 700 miliardi di debito europeo, e meno male, sennò Spagna e Portogallo in primis erano in un'altra situazione. Vediamo di capire che tipo di Cina è quella che sta arrivando ed è già arrivata in Europa. Oggi lo facciamo con un altro imprenditore. Abbiamo avuto appunto le cappe di Elica, le borse di Pquadro. Un altro dei settori più attaccati dalla concorrenza cinese è sicuramente quello del legno arredo. Ingegnere Alessandro Caligaris, presidente del gruppo Caligaris, quindi Manzano, Udine, il distretto della sedia. Lei è anche presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. 141 milioni di euro di fatturato, 700 dipendenti, 5 stabilimenti, di cui uno in Croazia, 12.000 punti vendita avete in 90 paesi. Mi dico una cosa, in Cina siete sbarcati? Come no? In Cina, dopo anni in cui praticamente avevamo iniziato già nell'anno 97-98 a fare un primo approccio e dal quale poi eravamo rimasti, come si può dire, scottati, perché non avevamo trovato veramente dei partner giusti, perché per presidiare un mercato bisogna anche praticamente trovare dei partner adeguati, e noi quel periodo veramente forse non l'avevamo trovato. E dall'anno scorso nuovamente ci siamo rappresentati in Cina, forse col partner giusto questa volta, e da lì praticamente stiamo iniziando adesso il nostro processo di espansione tramite appunto una nostra presenza distributiva, tramite quindi negozi dedicati con il marchio Caligaris. Ma voi producete in Italia o in Cina? Noi produciamo in Italia, produciamo realmente dei componenti anche in alcuni paesi dell'est europeo, tra i quali, oltre che nei paesi dell'est, anche diciamo in Cina. Cosa producete in Cina? In Cina dei componenti in alluminio, delle parti in metallo specifiche, diciamo, che hanno bisogno di saldature particolari, o quindi c'è un costo del lavoro importante, e quindi veramente dei componenti, non dei prodotti finiti. Ma avete una vostra fabbrica o avete diciamo, un fornitore? Che abbiamo veramente dei fornitori con i quali veramente abbiamo creato dei rapporti forti e quindi che vengono seguiti dai nostri tecnici. Allora, vediamo cosa... poi vorrei capire con lei se avete imparato anche voi qualcosa dalla Cina, come raccontava Casoli, che si è comprato il concorrente e adesso sviluppa molte idee, oppure se la linea è quella che spiegava Straffi delle Winx, delle fattine, andare a vendere sui mercati quello che vogliono i mercati, non quello che vorremmo vendere noi, o addirittura, se come ci raccontava Pquadro, in realtà il problema della Cina è che è un bel mercato in cui vendere, quindi sta arrivando in pareggio tra quello che importa dalla Cina e quello che esporta in Cina. Tutti casi un po' diversi, però prima di avere la sua risposta vorrei capire con questa scheda che cosa stanno comprando i cinesi in Europa. Chi pensa che la Cina sia solo tessile a buon mercato, manodopera a bassissimo costo e dure condizioni di lavoro, meglio che aggiorni i suoi cliché. Il celeste impero si presenta sulla scena finanziaria mondiale in giacca e cravatta, firma contratti miliardari che sono boccate d'ossigeno per i paesi che ne beneficiano. Nel 2010 spicca l'affare Volvo. La casa automobilistica svedese, con oltre 80 anni di storia, viene ceduta dalla Ford per 1,8 miliardi di dollari alla Geely, che ha solo 13 anni di vita. La Cina mette poi gli occhi sulla Grecia per trasformarla nella sua testa di ponte per il commercio con l'Europa orientale. La COSCO, la più grande compagnia statale cinese di navi, ha investito 3,3 miliardi di euro per il controllo di una parte del porto del Pireo per i prossimi 35 anni. Ma l'espansione finanziaria cinese ha raggiunto anche i paesi euro in lingua inglese. In Irlanda, ad Athlone, il governo cinese sta per investire 50 milioni di euro per costruire appartamenti, scuole, stazioni ferroviarie e fabbriche in cui si produrranno beni di fattura cinese. Simile è anche il parco industriale formato da PMI orientali a Châteauroux, a sud di Parigi. In Portogallo, invece, il colosso dell'energia China Power International punta all'acquisto di una partecipazione nel gruppo energetico locale EDP per collaborare alla produzione di energia rinnovabile in Europa, Africa e Brasile. Più verso est saranno multinazionali di Pechino a sistemare le reti bulgare sia di telecomunicazioni che stradali. In Italia, infine, la Qianxiang ha comprato le moto Benelli, la Haier i frigoriferi Meneghetti di Padova e poi si è insediata nel distretto di Varese. La Zoomleon ha poi rilevato la CIFA, produttrice di macchine e utensili per l'edilizia della provincia milanese. Per non citare infine le indiscrezioni di questi giorni riguardanti Pininfarina, al cui controllo sarebbe interessata la cinese Bike. Alla faccia dei bastoncini per il riso. Presidente Caligaris, sì. Che opportunità avete avuto voi in Cina? Avete imparato, avete copiato a vostra volta o avete scoperto che c'è un mercato che vi acquista? No, abbiamo scoperto un mercato che può acquistare, in quanto anche i cinesi riconoscono veramente nel design, nello stile italiano, il prodotto di identità per arredare le loro case con uno status symbol. Quindi praticamente noi come produttori di design e di praticamente prodotti di arredo siamo veramente presenti per distribuire i nostri prodotti in Cina, come dicevo ma, prima. Ma glieli fate, ma glieli fate italiani o glieli fate su modelli design cinese? No, su modelli praticamente di designer italiani o europei, o qualcuno anche giapponese, che noi perché abbiamo anche degli assistenti di designer, l'assistenza di designer giapponesi, e sono tutti prodotti praticamente che sono sul nostro catalogo che distribuiamo nel mondo, in quanto il settore dell'arredamento non è che ha una specificità come nel passato, quindi di prodotti per i diversi mercati, ma facciamo dei modelli omogenei per tutti i mercati del mondo. Senta, ma a voi fa più male la concorrenza cinese, parlo di concorrenza legale, ci mancherebbe, o quella dell'IKEA, visto che l'IKEA ha aperto a 19 km da Manzano, a Villesse, un megastore da 33.000 metri quadri con 300 persone che ci lavorano? Diciamo questo, che la concorrenza cinese si identifica con la concorrenza IKEA, perché l'IKEA fa fare gran parte dei suoi prodotti in Cina, quindi il prodotto cinese si esprime tramite la distribuzione IKEA. Totalmente legale, ci mancherebbe. Sicuro, sicuro. Così come H&M fa fare buona parte del suo tessile in Cina e poi però lo vende sicuro, come sicuro, H&M. Sicuro. Quindi veramente IKEA praticamente ha una presenza ugualmente di produttori qui in Italia abbastanza forte, ma di prodotti su una base veramente piana, ad esempio i bussolotti per le cucine o quant'altro, dove ci sono dei grossi produttori anche qui nella nostra regione, sì, dove sono specializzati con linee produttive molto tecnologiche e quindi praticamente neanche i cinesi non riescono a far competizione a questi nostri colleghi. Ma perché? Perché fanno veramente dei componenti piani dove veramente il costo del trasporto e quant'altro, sì, non sarebbe giustificato importarlo dalla Cina. Opportunità o minaccia la Cina? Chiudiamo su questo. Opportunità o minaccia? Io credo sempre dell'opportunità. Le minacce ci sono sempre da qualsiasi parte. L'importante è trovare le opportunità, e le opportunità si trovano presidiando i mercati. Noi siamo avvocati all'export e credo che l'Italia appunto abbia delle grandi chance per poter esportare i suoi prodotti. Sì. E quindi non dobbiamo solamente produrli, ma dobbiamo veramente saperli vendere. Sapendoli vendere dobbiamo presidiare i mercati. Significa essere presenti con le organizzazioni, devo... organizzazioni di vendita e quant'altro. Grazie anche Presidente Caligaris, appunto il leader nel settore. Giuseppe Cruciani, lo vedo rabbuiato perché la Lazio ha perso. Vabbè, adesso non esageriamo, non sono arrabbiato per nulla, sono carico, comunque, molto carico. Per la Giunta Alemanno, ma che è successo Roma? La Giunta Alemanno, perché dovrei essere carico per la Giunta Alemanno? Non mi parlare di queste cose così minori, allora, dimmi, della politica. Allora dimmi la cosa maggiore della politica di cui ti occuperai oggi. Ci occuperemo di che cosa? Ci occuperemo della vicenda di Nolfi, un blogger picchiato per strada, che all'inizio ha dato la colpa a Sallusti, il direttore del giornale, poi in realtà si era pacificato con lui. Poi avremo ospite qui in questi studi, clamoroso dictu, per parlare dei diari di Mussolini. Pensate un po', qui, se volete venire qui sotto a protestare, Marcello Dell'Utri, più tardi. 349-238-6666 anche per Giuseppe Cruciani. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.